trovato Lola appesa nell'armadio. Attaccata alla mia cintura. L'hanno fotografata. Poi hanno slegato la mia cintura e l'hanno messa in un sacchetto di plastica trasparente. Gli uomini col nero fumo hanno disteso Lola sul letto e l'hanno trasportata fuori dalla stanza. La sua valigia con i vestiti e il sacchetto di plastica con la mia cintura li ha portati via uno di loro. Io e Lola vivevamo in uno studentato. La stanza era piccola, un quadrilatero. Nella stanza c'era una finestra, 6 ragazze, 6 letti, una valigia sotto ogni letto. Accanto alla porta un armadio a muro. Sul soffitto, sopra la porta, un amplificatore. I cori operai cantavano dal soffitto alla parete, dalla parete ai letti finché non calava la notte. In ogni dormitorio c'erano 40 piccole stanze identiche. Qualcuno diceva che gli altoparlanti vedono e sentono tutto ciò che facciamo. I vestiti delle 6 ragazze erano appesi nell'armadio, attaccati l'uno all'altro. Lola aveva meno vestiti di tutte, indossava i loro abiti. Sotto ogni letto c'era una valigia con dei calzini di cotone attorcigliati. In tutto il paese si chiamavano calzini brevettati. Calzini brevettati per ragazze che in realtà volevano calzamaglie lisce e sottili quanto un velo. Le ragazze volevano lacca per capelli, mascara e smalto per unghie. Sotto i cuscini dei letti c'erano 6 scatole con del mascara. Prendo la scatola, sputo nella scatola, giro la polvere nero fumo con lo stuzzicadenti finché l'impasto non diventa appiccicoso. Poi apro bene l'occhio, lo stuzzicadenti sfrega sulla palpebra, le ciglia diventano nere e spesse. Dopo un'ora la saliva s'asciuga, la polvere nero fumo cade sulle guance. Le ragazze vogliono nero fumo sulle guance, mascara sul viso, ma mai più mascara industriale. Nel pomeriggio, dopo la morte di Lola, ho trovato il suo quaderno dentro la mia valigia. L'aveva nascosto sotto i miei calzini, prima di prendere la mia cintura. Lola veniva dal sud del paese e le vedevi addosso un ambiente rimasto povero. Forse dagli occhi, gli zigomi o intorno alla bocca. Ogni ambiente nel paese era rimasto povero, così come ogni volto, ma l'ambiente di Lola, gli occhi, gli zigomi, la bocca, erano più poveri. Lola scrive nel suo quaderno: ciò che si porta fuori dall'ambiente lo si porta dentro al proprio volto. La siccità divora ogni cosa. Ma non è stata la siccità a portare Lola in città. Lola voleva studiare russo. Si era iscritta al partito e mostrava il suo bel libro rosso. Parlava di coscienza, allineamento della città e del paese, scrive Lola. I desideri sono pesanti, le mete leggere. Un uomo che studia qualcosa ha unghie pulite, non più pecore né meloni, ma unghie pulite. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini grandi. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini grandi, tutti pieni di zanzare, tutti pieni di zanzare. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini piccoli. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini piccoli, tutti pieni di formiche, tutti pieni di formiche. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini morbidi. Se un giorno mi sposo, mia madre dice che mi darà 20 cuscini morbidi, tutti pieni di foglie marce, tutti pieni di foglie marce. Lola scrive nel suo quaderno: deve essere difficile mantenere bianche le camicie d'un uomo. Se dopo 4 anni viene con me nella siccità, sarà il mio amore. Se le sue camicie bianche riusciranno ad abbagliare i passanti del paese, sarà il mio amore. Deve essere difficile mantenere bianche le camicie di un uomo con tutta la sporcizia in cui saltano le pulci. Col suo desiderio di camicie bianche, Lola doveva inseguire e fuggire. Anche nella fortuna restava povera, come l'ambiente sul suo volto. Lola vagava sul tram, viaggiava senza meta. Alla fermata Lola guardava verso la porta per vedere se saliva qualcuno. Scrive Lola: perché di giorno sale sempre qualcuno, come se mi conoscesse, e di notte quella stessa persona sale, come se mi cercasse. A mezzanotte salgono uomini che finiscono il turno dalla fabbrica di detersivo e dal mattatoio. Uscivano dalla notte e si infilavano nella luce del vagone. E vedo un uomo così stanco del giorno che nei suoi vestiti c'è solo un'ombra e nella sua testa non arriva nessun amore, nelle sue tasche nessun denaro, solo polvere di detersivo rubata. Gli uomini si sedevano nel primo posto vuoto e abbassavano le teste. A un certo punto stringono forte a sé le borse. Vedo le loro mani sporche. Poi mi lanciano un'occhiata in volto. Non chiudono più gli occhi. Alla fermata un uomo scendeva dietro di me. Io non mi guardavo intorno. Camminavo rapidamente. Arriviamo in un parco incolto. Senza una parola mi stendo sul prato e lui mette la borsa sotto il ramo più lungo e basso. Non c'è nulla da dire. Il vento cacciava la notte e Lola sballottolava silenziosa la testa e il ventre. Sul suo volto frusciavano le fronde, le stesse che anni prima avevano frusciato su un neonato di 6 mesi voluto da nessuno se non dalla povertà. E come allora le gambe di Lola erano graffiate dai rami, ma il suo volto mai. Suicidata, suicidata. All'aula magna erano presenti centinaia di persone. Tutti applaudirono. Applaudendo, ognuno lanciava occhiata alle mani degli altri. Alcuni avevano interrotto per un attimo, si erano spaventati e avevano continuato ad applaudire. La maggioranza avrebbe smesso volentieri. Dopo l'applauso, l'insegnante di ginnastica salì sul podio, indossava una camicia bianca, si votò per espellere Lola dal partito e per cancellarla dal registro del collegio. L'insegnante di ginnastica disse: non occorre contare. Ovviamente sono tutti a favore per l'espulsione. Nell'ultima pagina del suo quaderno Lola scrive: l'insegnante di ginnastica mi ha chiamata la sera in palestra e mi ha chiusa dentro. Solo i grossi palloni di cuoio stavano lì a guardare. Una volta gli sarebbe bastato, io però l'ho pedinato di nascosto e ho trovato casa sua. È impossibile conservare bianche le sue camicie. Mi ha denunciata la sezione centrale. Non mi libererò mai della siccità. Quello che devo fare, Dio non me lo perdonerà, ma il mio bimbo non condurrà mai pecore, né raccoglierà mai meloni. Seguivo con lo sguardo gli uomini di Lola. Erano contadini presi dai villaggi, non più pecore né meloni. Come folli avevano inseguito la fuliggine della città. Gli uomini sapevano che il loro ferro, il loro legno, la loro polvere di detersivo non contava nulla. Tutto quello che doveva essere grande e spigoloso nelle loro mani tozze si trasformava in una pecora di latta. Quello che doveva essere piccolo e rotondo nelle loro mani tozze si trasformava in un melone di legno. Il proletariato delle pecore di latta e dei meloni di legno si infilava dopo il primo turno nella prima birreria. Edgar, Kurt e Georg stavano anche loro nello studentato. Cercavano qualcuno che avesse condiviso la stanza con Lola. Loro dubitavano che la morte di Lola fosse stata un suicidio. Quando pensavo le cose di Lola da sola, molte cose non mi tornavano in mente. Quando loro mi ascoltavano, mi tornavano in mente di nuovo. Pronunciavo le parole di Lola e Edgar prendeva appunti. Anche il tuo quaderno sparirà. Abbiamo un posto più sicuro in città, disse Edgar. La casa estiva in un giardino selvatico. Là ci sono anche i libri. Edgar, Kurt, Georg e io parlavamo di come ognuno di noi si fosse allontanato da casa. Edgar e io venivamo dai villaggi, mentre Kurt e Georg da piccole città. Parlavamo dell'ambiente che ognuno ha nel proprio volto. Diceva Georg: qui tutti rimangono paesani. Ce ne siamo andati di casa con la testa pensando di andare in una grande città, ma in realtà siamo finiti in un altro paese. In una dittatura tutto rimane piccolo quando viene sorvegliato. Si passa da una città all'altra e da paesano si diventa un altro paesano. Quando partì, disse Edgar, la campagna rotolò dal paese fino in città. Il mais era verde e oscillava. Io pensavo tra me, ora il giardino di casa si allunga e rincorre il treno. Il treno viaggiava lentamente. Kurt disse: Il bosco continuava a coprire il finestrino. Non appena vidi una striscia di cielo, pensai: lassù c'è un fiume. Il bosco aveva spazzato via tutto il paesaggio. Il mio padre, al momento di salutarci, era talmente ubriaco che pensava che io partissi per la guerra. Rideva e batteva mia madre sulle spalle. Ora il nostro Kurt parte per la guerra! Mia madre ha urlato: come si può essere così ubriachi? Ma poi ha pianto. È perché credeva a ciò che lui diceva. Edgar e Georg scrivevano poesie e le nascondevano nella casa estiva. Kurt fotografava i detenuti che erano trasportati dal carcere fino ai cantieri dietro i campi e le fotografie le nascondeva nella casa estiva. Le guardie dimostravano la propria affidabilità in base al numero dei nemici. I servizi segreti diffondevano le dicerie sulle malattie del dittatore per indurre la gente alla fuga, incastrarla, per indurre la gente a bisbigliare e incastrarla. Perquisirono nostre stanze, le mie coperte, il materasso, il mascara per ciglia stavano a terra. Sopra la valigia c'era la lettera di mia madre. Diceva: sono arrivati 3 uomini con auto. 2 di loro hanno messo la casa sotto sopra. Il terzo era solo all'autista. Ha parlato con tua nonna. Parlavano la stessa lingua. Viene da un paese vicino. Non voleva dire quale. La nonna l'ha scambiato per tuo padre. Voleva pettinarlo. Lei sa che ognuno di noi ha un animale del cuore. Lui l'ha tolto il pettine e lei si è messa a cantare. Lui si è messa a cantare con lei. Nuvole quante nel mondo. Nuvole quante nel mondo, lo sai? Fuori lontano nel mondo, chissà se Dio le conta mai, se Dio le conta mai. E non gli basti il fondo. Nuvole quante nel mondo. Fuori lontano nel mondo. Lo sai? Da quando tuo padre è morto, tua nonna ha dimenticato tutta la sua vita. Le sue guance hanno 88 anni, ma la sua memoria è quella di un bambino di 3. L'unico modo per farla star buona è quella di pettinarla. Ieri è venuto il parroco e ha detto: Signore Dio sacramento, adesso basta. La nonna si è intrufolata in sagrestia. Ha visto il parroco e ha detto: anche te sei una rondine, ora mi cambio il vestito e vogliamo insieme. La nonna aveva mangiato tutte le ostie. Poi la messa ha avuto inizio. 6 persone si sono inginocchiate sull'altare per prendere la comunione. Il parroco va dall'una all'altra col calice nel quale ci sono le 2 ostie morsicate da tua nonna. Questa l'ha data ai primi 2, gli altri 4 ha detto: corpo di Cristo, e ha pigiato forte col pollice. Ho dovuto scusarmi con il parroco. Prima o poi ti deciderai a lasciare questo paese. Mia madre diceva È del tutto normale non mettere in discussione gli amici. Pensa a cose più serie. Ognuno aveva un amico in ogni pezzetto di nuvola. Così infatti con gli amici, dove il mondo è pieno di terrore. Anche mia madre diceva, è del tutto normale non mettere in discussione gli amici. Pensa a cose più serie. Il capitano Piele, che si chiamava come il suo cane, interrogò Edgar, Kurt e Georg a causa di questa poesia. Il capitano Piele aveva un foglio con questa poesia. Appallottolò il foglio. Il cane Piele abbaiò. Il capitano Piele si lamentò dei suoi dolori al rene. Con me siete fortunati. La poesia incita alla fuga. Ah, è una vecchia canzone popolare. Sarebbe stato meglio se l'avesse scritto uno di voi. Sarebbe stato grave, ma così lo è ancora di più. Queste canzoni magari una volta erano canti popolari, ma allora erano altri tempi. Il regime borghese benestante è stato superato da tempo. Ora il nostro popolo canta altre canzoni. Vivete di attività parassite e sovversive, tutte contro legge. Leggere e scrivere lo sanno fare tutti in questo paese. Volendo ognuno scrive poesie senza essere organizzato in modo rivoluzionario e criminale. La nostra arte se la crea il popolo. Non abbiamo bisogno di una banda da sociali per farlo. Ma perché non andate fuori dal paese? Nessuno vi trattiene. È una cosa certa. Chi veste pulito non può arrivare in cielo sporco. Dovreste andare ad annaffiare qualche monumento invece di fare cose inutili. Potete andare. Voi siete una semente cattiva. Ma con me siete fortunati. All'aperto, da ogni bocca, entrava dell'aria fredda. Davanti al nostro volto passarono una schiera d'animali. Guarda, il tuo animale del cuore se ne va. Scrivendo, non dimenticate la data e mettete sempre un capello nella lettera. Se dentro non c'è, vuol dire che la lettera è stata aperta. Tutto intorno a noi sapeva di separazione, ma nessuno pronunciava la parola. Non sapevo cos'erano stati questi 4 anni, se erano rimasti dentro di me o nei miei vestiti. L'ultimo anno mi ero truccata ogni mattina. Più ero truccata e meno volevo vivere. E meno volevo vivere. E meno volevo vivere. Guarda! Il tuo animale del cuore se ne va. Ieri sera il vento mi spinse tra le braccia del mio amore. Se avesse picchiato più forte, avrebbe spezzato il suo cuore. Una tale fortuna che il vento si sia fermato. Ieri sera il vento mi spinse tra le braccia del mio amore. Dopo il diploma ero stata assunta come traduttrice in una fabbrica. traducevo manuali per macchine idrauliche. Edgar si era trasferito lontano in una sporca città industriale. In questa città costruivano pecore di latte e la chiamavano metallurgia. Edgar era un insegnante in questa città. Qui, vedi dappertutto il quaderno di Lola, diceva. È grande quanto il cielo. Nell'autobus la gente viaggia con le teste chine, sembra che dormano. Mi chiedevo i primi tempi come facevano a svegliarsi alle fermate esatte. Quando si viaggia, si china la testa come loro. Il pavimento dell'autobus è rotto. Attraverso i buchi, vedi la strada. Georg, come insegnante, era stato spedito in una città industriale nella quale fabbricavano meloni di legno. I meloni di legno si chiamavano industria della lavorazione del legno. Gli operai rubano scarti di legno e ne fanno parquet. Chi non ruba in fabbrica non viene preso sul serio, è per questo che non smettono di rubare e di stendere parquet anche quando in tutto l'appartamento ci sono già pavimenti di parquet. Kurt veniva in città una volta a settimana e lo vedevo più spesso. Era ingegnere in un mattatoio. Devo controllare 12 operai. Ieri mi è caduta una stanga di ferro sulla mano e hanno lasciato là ferito. Ho gridato che tutti loro sono sotto processo, che da molto tempo hanno smesso di essere umani, che orrore di loro, che tutto il loro paese è il buco del culo di una mucca in cui si infilano la sera e da cui escono la mattina, che il cielo dovrebbe cadere loro in testa e schiacciarli! Sono rimasti in silenzio, come un gregge. Il giorno dopo, avevano già dimenticato il mio grido. Sono un complice anch'io come loro. Sono un complice anch'io come loro. Sono un complice anch'io come loro. Sono un complice anch'io come loro. Aveva un amico in ogni pezzetto di nuvola. Così infatti con gli amici, dove il mondo è pieno di terrore. Anche mia madre diceva, è del tutto normale non mettere in discussione gli amici. Pensa a cose più serie. Anche io venivo regolarmente interrogata dal capitano Piele insieme al cane Piele. Gli uomini erano tanti quanti cani, tanti quanti peli su un cane. Sul tavolo c'era il foglio con la poesia. Il capitano Piele appallottolò il foglio. Il cane Piele abbaiò. Chi ha scritto questo? Nessuno. È un canto popolare. Allora è patrimonio del popolo. Allora il popolo può continuare a comporre poesie. Sì. E allora componi. Non so comporre. Ma io compongo. Tu scrivi ciò che io compongo, così ci divertiamo insieme. Avevo 3 amici in ogni pezzetto di nuvola. Così è infatti con le puttane, dove il mondo è pieno di nuvole. Anche mia madre diceva, è del tutto normale non mettere in discussione 3 amici. Pensa a cose più serie. Cosa fa una donna sola con 3 uomini? Deve trattarsi di una ammucchiata, come un matrimonio di cani. Devi stare attenta, chissà che padre ti capiterà per i tuoi figli. A parole non si rimane incinta. Voi siete una semente cattiva. Quanto a te. Ti affogheremo. Conoscevo la sarta da un po' di tempo. Le persone andavano da lei più per la lettura delle carte che per la cucitura dei vestiti. La maggior parte dei clienti non dicono perché vengono da me, ma io so che hanno bisogno di fortuna per la fuga. Alcuni pagano molti soldi, mi fanno pena, ma io non posso cambiare la loro sorte. Anche la mia cliente viene da me per sapere se la fuga col suo amante riuscirà. La mia cliente ha un amante che schizza fino al soffitto. Il marito non sa che le macchie sopra il letto sono di sperma. Sembrano macchie d'acqua. Ieri il marito ha portato a casa suo cugino. Col tempo umido sono saliti sul tetto, cercavano tegole rotte. C'erano 2 tegole rotte, ma non sopra il letto. Il cugino ha detto, quando il vento soffia di traverso, anche la pioggia cade di traverso. Domani Il marito della mia cliente vuole verniciare il tetto. Ho cercato di convincerlo ad aspettare fino alla primavera. Sapete bene, gli ho detto che alla prossima pioggia accadrà nuovamente. L'amante della mia cliente è capace di portare un secchio mezzo pieno d'acqua col pene. Me l'ha mostrato una volta. Io gliel'ho detto alla cliente: con uno così non si ha alcuna fortuna. C'è bisogno di consultare le carte per vedere questo. Accanto alla sarta c'era una giovane donna, Teresa. Mi ricordava Lola. L'avevo già vista in ufficio, nella fabbrica dove lavoravo. Indossava il vestito fiorito e veniva da me ogni giorno. Non voleva iscriversi al partito. La mia coscienza non è sufficientemente voluta, diceva. Posso rifiutarmi, perché mio padre è qui in fabbrica un'autorità. Ha annaffiato ogni monumento. Io parlo tanto e rifletto poco. Quando dico scarpe, sono solo scarpe. Quando il vento sbatte la porta mi prendo un colpo, come se qualcuno fosse morto durante la fuga. Alle donne dell'ufficio Teresa non piaceva, perché indossava vestiti diversi. Con quello fiorito girava solo un giorno. Le donne dicevano: ah, vestiti dalla Grecia e dalla Francia, maglioni dall'Inghilterra, jeans dall'America, Cipri, rossetti, mascara dalla Francia, gioielli dalla Turchia, calzamaglie sottilissime dalla Germania. Tutto ciò che Teresa indossa vale una fuga. Chi ama ed abbandona, Dio lo deve punire. Dio lo deve punire col passo dello scarafaggio, il ronzio del vento, la polvere della terra. Chi ama ed abbandona, Dio lo deve punire. Dio lo deve punire col passo dello scarafaggio, il ronzio del vento, la polvere della terra. Non fidarti delle false amicizie. Riempivo le mie tasche con due grossi sassi e andavo avanti lungo il fiume. Dicono le formiche in sogno: sono una corona di rose, ti affogheremo. Non fidarti delle false amicizie. Finalmente avevo una meta. Teresa conosce Pir tanto quanto te, o addirittura da più tempo. I sassi tornavano a terra, riempivo le mie tasche con ti affogheremo. I sassi pesanti. Finalmente avevo una meta. Non fidarti delle false amicizie. Tornavano a terra e andavo avanti lungo il fiume. Finalmente avevo una meta. Kurt mi aveva portato la scatola con le fotografie e un'altra con i libri. Non potevano più stare nella casa estiva, non era più un posto sicuro. Venivamo perquisiti regolarmente da Piele. Kurt mi diceva di non fidarmi di Teresa, che ogni giorno andava da Piele. Diedi la scatola a Teresa e lei l'accettò con fiducia, mentre io non ne avevo nessuna per lei. Teresa confondeva sempre le città, Roma con Atene, Varsavia con Praga. Muovi le città di qua e di là come ti pare, guarda qualche volta l'Atlante. Ma il fatto di saperlo ti è mai servito a qualcosa? Mentre facevamo la ceretta, Teresa era nuda. Vedevo un grosso nodo sotto l'ascella, come una noce. Il medico mi ha detto che è solo un ammasso di grasso, che solo quando è cresciuto si può asportare. Il mio compagno è medico nell'ospedale del partito. A mio padre cura la spina dorsale, a mia madre le vene varicose, a mia nonna l'arteriosclerosi. Solo a me non vuole visitarmi. E tutto ciò che vede di giorno e di notte sono malati. Non vuol far la parte del dottore anche con me. Il fatto che l'uomo che amo non voglia visitarmi mi rende estranea. Se mi curasse, mi metterebbe in imbarazzo, sarei come tutti, la cui carne passa sotto le sue mani e non avrei più segreti. Quando dormo con lui mi tengo addosso la camicia in modo che non veda la noce. Si sdraia sopra di me e ansima. Poi si alza e fuma. Io vorrei che rimanesse accanto a me per un po'. Dice che sono infantile. Se domani tu venissi trasformata in un uccello, che tipo di uccello vorresti essere? Continuavo ad andare dalla sarta. La morte ti ha fischiato, le carte dicono questo. Sono riuscita ad andare fuori dal paese 3 giorni come turista. Ho portato dell'oro da vendere. Noi donne sappiamo trattare meglio degli uomini. Infatti sull'autobus 2/3 erano donne. Al ritorno ognuna aveva un sacchetto di plastica con dell'oro nascosto nelle mutande. I doganieri lo sanno, ma cosa vuoi che facciano? Superata la dogana, la paura non c'era più. Eravamo tutte addormentate con l'oro tra le gambe. Qualcuna doveva sempre andare al gabinetto. L'autista si è lamentata, ha detto: è un tormento viaggiare con le donne perché col chiaro di luna devono sempre pisciare. Anche la cliente con le macchie di sperma sul soffitto è venuta con noi, col suo amante. Fin dal viaggio d'andata ha tentato un approccio col doganiere per motivi d'affari. L'amante poi gliel'ha fatta pagare e all'albergo si è preso una stanza separata. Non essendoci stanze libere, è venuto a dormire da me. Cosa dovevo fare? È successo quello che doveva succedere. Ho dormito con lui. Ero molto preoccupata per il soffitto dell'albergo. Le donne delle pulizie controllano sempre tutto prima che si parta e la mia cliente non sa nulla. Al ritorno, lui sedeva di nuovo vicino a lei, le toccava i capelli e guardava indietro verso di me. Non voglio che un giorno venga a bussare alla mia porta. Non voglio perdere la cliente, la conosco ormai da tanto tempo. Quando alla dogana siamo usciti dall'autobus, lui mi ha dato un pizzicotto sul braccio. Per liberarmi di lui ho tentato un approccio col doganiere, anche per motivi d'affari. Speriamo che il doganiere si ricordi di me. Le carte dicono che la prossima settimana riuscirò a fuggire. Ah, mi ero dimenticata di dirti che le carte hanno detto che sei stata licenziata. Ero stata licenziata. Anche Edgar e Georg vennero licenziati. Georg diceva: quando attraverso il paese mi abbaiano tutti i cani addosso, forse sentono la puzza d'estraneo. L'altro giorno mi hanno picchiato vicino alla stazione. Conosco i tipi fin dai tempi del collegio, pugni e scarpe, tutto ciò che ricordo. Il tribunale non ha accettato la denuncia contro i picchiatori. Dove lavorate? Sporgere denuncia contro ignoti in questo paese lo può fare chiunque sa noi. Lei soffre di pigrizia, immaginazione, manie di persecuzione. Pensa di essere innocente, ma nessuno viene picchiato in questo paese senza motivo. Georg ha sentito un unico desiderio, quello di non fare più alcun passo in questa terra. Così, senza sapere dove stessi andando, sono andato all'ufficio passaporti, ho compilato la domanda d'espatrio come uno che sta per annegare. Poi l'ho subito consegnata, rapidamente. Prima che il capitano Piel potesse comparirmi davanti agli occhi, ora sto meglio. Sono quasi un essere umano. Dopo aver consegnato la domanda, non vedevo l'ora di incontrarvi. In realtà Georg è come un fantasma. Si sveglia la mattina presto e si mette alla finestra. Là c'è sempre lo stesso legno spoglio da caccia, la fossa, il prato, il pantano, altrimenti il nulla. Aspetta la notizia dall'ufficio passaporti. Quando è arrivato il permesso d'espatrio, Georg si è chiuso nella sua stanza, l'abbiamo sentito piangere. Prima della partenza ha detto: non scrivo più lettere, solo cartoline. La prima l'ha scritta a me. Una passeggiata invernale con alberi nodosi lungo il fiume. Ti ringrazio per essere stato mio amico. La cartolina viaggia per 2 mesi. Il tuo animale del cuore se ne va. Edgar compilammo la domanda d'espatrio. Kurt non si sentiva in grado di espatriare. In primavera ci vediamo, diceva. Sono un complice, diceva. Forse è per questo che non mi licenzieranno, diceva. Non fidarti di Teresa, diceva. Prima della partenza alla stazione venne a farmi visita Teresa. Il suo volto era ardente, i miei occhi bagnati. Mi dicono che tutti i giorni vede Apiele. È vero. Cosa gli hai promesso? Niente. Perché sei qui? Volevo vederti. Avrei il diritto di cacciarti. Cantare davanti al capitano non è niente in confronto. Spogliarmi davanti a lui non mi ha denudato quanto te. Ma non c'è niente di negativo nel fatto di volerti vedere. Racconterò a Piele qualsiasi cosa non sia di utilità. Lo possiamo concordare io e te. Tu e io. Tu e io non esiste più. Tu e io non si può più pronunciare. Non ci fu nessun addio. Quando il treno partì, né dentro né fuori c'erano mani a salutare. Volevo che l'amore crescesse ancora, come l'erba appena tagliata. Deve crescere diversamente, come i denti dei bambini, come i capelli, come le unghie delle dita. Deve crescere come vuole. Perché? E quando l'amore legato si trasforma in assassinio? Quando Teresa morì, 6 mesi dopo il nostro addio, volevo cedere la memoria. Ma chi? Ora tutto ciò che riesco a fare è respirare come la verdura dell'orto. Ho nostalgia fisica di te. L'amore per Teresa è ricresciuto. L'ho costretto a questo. E ho dovuto proteggermi. Non riesco ad immaginarmi alcuna tomba oggi. Solo una finestra, una cintura, una noce, una fune. Ogni morte per me è come un sacco. La cintura era stato il sacco di Lola. La noce era stato il sacco di Teresa. La fune era stato il sacco di Kurt. Era complice, diceva. L'hanno trovato appeso nella sua stanza. La finestra era stato il sacco di Georg. 6 settimane dopo l'espatrio giaceva sul marciapiede. Forse la pozza in cui si trovava la sua testa rispecchiava il cielo. Ognuno aveva un amico in ogni pezzetto di nuvola. Così infatti con gli amici, dove il mondo è pieno di terrore. Anche mia madre diceva: è del tutto normale non mettere in discussione gli amici. Pensa a cose più serie. Dove il mondo è pieno di terrore. Aveva un amico in ogni pezzetto di nuvola. Così infatti con gli amici, dove il mondo è pieno di terrore, anche mia madre diceva del tutto normale.